Io mi muovo, tu resta sempre in punto. Forse. Il legame d'amore, Eugenie. Certo, certo. Non piano piano, cioè il piano di prima. Con tale sentimento non entri mai nel vostro cuore, se volete essere felici. Le ore si scaldino. E cos'è l'amore? Forse è un cuore esploso tra i sembra chiaro. E le mani intrecciate. Non si può considerare altro che l'effetto risultante delle qualità. Le ore si scaldino. Forse è un cuore esploso. Mi parlate di legami d'amore, Eugenie. Mi parlate di legami. Possiate non conoscervi mai. Un tale sentimento non è possiate non conoscerli mai. Un tale sentimento non entri mai nel vostro cuore se volete. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Mi sembra chiaro. Mi sembra chiaro che non si può considerare altro che l'effetto delle qualità dell'oggetto su di noi. Certi effetti ci trasportano. Certi effetti ci trasportano, ci infiammano. Se noi possediamo quell'oggetto, siamo contenti. Se non è possibile averlo. Se non è possibile averlo, piangiamo nella disperazione. Ma qual è? Ma qual è la base di questo sentimento? Qual è? Qual è la base di questo sentimento? Di questo sentimento. Il desiderio. Quali le conseguenze? Il desiderio. Mi parlate di legami d'amore? Questa no. Mi parlate di legami d'amore? Dovrete possiate non conoscere. Sì. Ok. Le ore si scaldano. Forse adesso hai. Saliva si cinque sono. Saliva due, si stetti a sempre. Le mani intrecciate. Questa no. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scaldino. Forse adesso hai. Saliva si cinque sono. Saliva due, si stetti a sempre. Le mani intrecciate. Questa no. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scaldino. Forse adesso hai. Saliva se cinque sono. Saliva due, si stetti a sempre. Le mani intrecciate. Questa no. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scaldino. Forse adesso hai. Saliva se cinque sono. Saliva due, si stetti a sempre. Le mani intrecciate. Questa no. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scaldino. Forse adesso hai. Saliva se cinque sono. Saliva due, si stetti a sempre. Le mani intrecciate. Questa no. Sì. Le ore si scaldino. Forse è un cuore esploso. Fai un cuore esploso. Le mani intrecciate. Forse le mani intrecciate. Le ore si scaldino. Le ore si scaldino. Forse un cuore esploso. Forse un cuore esploso. Tra il forse le mani intrecciate.